Come stai? È la frase d'esordio nel mondo. Canto, no, tutto bene. Ho una casa e sto lavorando ogni giorno. Che cosa vuoi che dica? Di cosa vuoi che parli? Decidere. Distinguere e determinare tra più cose o persone quella che sia o ci sembri più adatta allo scopo o più conveniente alle circostanze. Pam pam pam pam! Ciao! Eccoci dalla zona grigia. Zona grigia per Marzi, Margherotti e Fede. Zona grigia, sì, in realtà, vabbè, zona rossa, ma non volevamo parlare di quello, volevamo parlare di tante altre cose, ma così ci sembrava facesse più hype chiamarci zona grigia. Facesse anche un po' ridere, tra l'altro. Infatti, sì, questa mi connessione. Sento connessi in tantissimi, giusto? Beh, ricordiamo appunto le nostre coordinate. Le coordinate sono... le nostre coordinate! Che sono... Le nostre coordinate sono: seguiteci su Telegram, anzi mandateci dei messaggi privati, emozionali, emozionanti, sconci, poco quello. Meno sconci. Meno sconci. Siamo su Telegram come account e ci trovate come radiozam_chat. Quindi non vedrete le altre persone, solo noi. Nel caso ci fossero nuovi ascoltatori, lo diciamo sempre. Quindi scriveteci in tantissimi. Questo è Fuori dal Comune, noi siamo a Radio Zam, oggi ragazzi si va verso la primavera, siamo anche non al freddo, abbiamo tra di noi, anzi con noi, focacce, dolci, panini. Abbiamo panini, uno sponsor che sì. Non ci hanno regalato, abbiamo comprato con i soldi della Marzia. Succederà, ci regaleranno anche questo. Arriveranno i nostri sponsor. E come sempre mandateci i vostri messaggi appunto sulla chat di Telegram che vi abbiamo appena detto, ma ve la ridico: radiozam_chat. E se volete ci trovate anche su Instagram come Fuori dal Comune stava preso. Esatto. Per fortuna che la Marzia è bravissima a tenere il ritmo in questi momenti qua in cui la Marga decide di smontare il suo microfono. No raga, ma perché mi sono resa conto strada facendo che era completamente al contrario. Aiuto, però e intanto mi sta cadendo. Vabbè ragazzi, parlate. Ok, intanto. sì, no niente, questo qua è il bello, ecco, della diretta, non lo dicono sempre. Infatti, Fede, queste cose non si dovrebbero spoilerare. No, beh, ma secondo me invece in realtà fa più un po' parte del gioco, cioè ci sentiamo tutti vicini così nelle nostre disagi. Nelle nostre case, per questa zona rossa, come la state vivendo? Allora, io sinceramente la sto vivendo molto peggio rispetto al primo lockdown. Io francamente me ne infischio. Ok, io credo di non avere più neanche una particella di serotonina dentro il mio corpo e ogni giorno quella che ce la vado a cercare. Ma Marzi, ci penso io. E questo è un discorso solo tra me, te e Fede. Non ne ho più, non sono arrivata. Abbiamo finito la serata. No, a me pesa tantissimo, raga, davvero. Cioè, mi sta pesando tanto perché non vedo la luce. Quello è vero. Però sì. Io un pochino ammetto che non è molto bello da dire, non è molto responsabile. Però sto cercando di vivere una vita più o meno normale nei limiti del possibile. Ah sì, sarebbe bello. Vabbè, ma ragazzi, sì, dai, insomma, ci strecciamo fino dove è possibile. Esatto. E in questi giorni, esatto, abbiamo deciso, perché non parlare di una cosa così gioiosa? È così leggera come prendere delle decisioni. Ma il fatto che vi faremo ridere lo stesso, e questo sarà magnifico. Perché voi penserete, o almeno noi, mazza che tema di merda. È vero, cioè la first reaction è molto corretta, non sentirti in imbarazzo tu che l'hai pensato, però troveremo il modo, speriamo, di farvi sorridere lo stesso. Sì, non so esattamente, sì. Cioè non so esattamente come, nel senso che noi non ci prepariamo le battute, no. Un giorno lo faremo una puntata, la sai, l'ultima. Sì, con tutte le battute già scritte. Esatto, con proprio le barzellette. Sì. Esatto. Ma lo sai com'è che si diceva, tipo quelle Pierino, barzellette? Esatto, sì. Cosa fa un uomo quando entra in un caffè? Splash. Bravo. Bene, persi tutti per fortuna gli ascoltatori. Avevo fortuna... detto non oggi, ragazzi. Non oggi, la sai l'ultima. Va bene, ragazzi, quindi invece zona grigia. Zona grigia, perché appunto non volevamo fare questa allusione molto simpatica alla, alla condizione attuale, ma di base volevamo parlare della, della difficoltà di scegliere. Quindi dell'indecisione di quella zona né bianco né nera. Sì, esatto, che ci coglie nel momento in cui ci troviamo davanti alle grandi decisioni della vita o anche le, grandi, le piccole decisioni quotidiane. Soprattutto. Soprattutto davanti alle piccole decisioni quotidiane, tra cui, raga, ma che tema facciamo la puntata di esatto, oggi? Boh. Sì. Andiamo a cazzo di cane. Possiamo esatto. fare, possiamo dedicare, cioè possiamo dire una cosa sincera. Diciamola. Il tema di questa... puntata nasce dal fatto che, come sapete, tutti i nostri fan giornalmente ci chiedono: beh, ma quindi la prossima puntata su cosa sarà? E noi, raga, dobbiamo decidere, non l'abbiamo ancora visto. Ieri la mia vicina mi ha chiesto: ma scusami, la prossima puntata? No, perché il panettiere mi diceva che tu volevi fare... sì, è proprio così. È andata così, così. E quindi grazie Carlo per averci dato questa piccola... detto, ma raga, potreste fare una puntata sul fatto che non questo avete è potere, mai deciso. Questo è il potere dei follower, potere della nostra community. Questo è per farvi capire che se intervenite, interagite con noi costantemente anche durante la puntata, cazzo, cominciate a scriverci su Telegram, vedrete i vostri frutti, insomma. Certo, cioè, noi coinvolgiamo assolutamente. Tutti. Sentiamo parte di una grande famiglia che ogni giorno si espanderà sempre di più, esatto. Che passa da Che Guevara che va fino a Madre Teresa. Che cheat, ammazza. Away. Questo era Lundini a Sanremo. Giovanotti. Esatto. Giovanotti cancellato da questa. Esatto. E poi un'altra cosa da dire riguardo alla zona grigia: voi sapete benissimo, voi perché ascoltate tutti quanti Radio Zam anche quando non ci siamo noi, che c'è una fantastica trasmissione che sono le prime persone che hanno creduto in noi. Le uniche persone che hanno creduto in noi all'interno di questa radio che si chiama Zona Rossa e giusto. È un po' qualche settimana che non andranno in onda, quindi il loro format molto divertente consiste nel parlare di un tema e poi chiamare le persone a casa per sapere un po' cosa ne pensano. E siccome abbiamo avuto, come dire, qualche indecisione sull'ospite abbiamo detto tema. Raga, ma siccome abbiamo fatto Zona Grigia, perché stasera non cambiamo un pochino il format e proviamo anche noi questa roba matta delle chiamate a casa? Quindi amici, scusami Marzi, vai. Beh, quindi amici, tenetevi il telefono sotto mano. Attenzione, potresti essere tu il fortunato. Esatto. Attenzione, per oggi e solo per oggi. Tieni il telefono vicino. A 5,99 euro ti chiameremo. E ti renderemo partecipi di questa piccola avventura. Assolutamente, saranno domande perché ovviamente molto semplici. Non siamo qui per voi, ma siamo qui con voi. Bella, vabbè ragazzi, cioè, io direi di iniziare questa puntata con un grande pezzo tranquillo. Un pezzo tranquillo assolutamente che mi metterà a proprio agio, ma che non poteva non rientrare nella puntata a tema scelta. Esatto, quindi vi lasciamo con Scegli Me, non dei Finlay ma dei Verdena. Yeah. che piangere. Sì. Un pezzo per sentirci subito acculturati e che adesso distruggeremo subito dicendo. Stavo dicendo proprio a Marghe e Fede poco fa che in realtà Scegli Me, sì, i Verdena li ho scoperti vecchia nella mia vita. Non quando ero adolescente, ma un po' dopo. Ok. Nonostante tu sia la più giovane dei tre. Esatto. E beh, perché Verdena erano più grandi, sì, ma c'era un Scegli Me, un pezzone Scegli Me che io sapevo e quando ero alle medie cantavo parecchio. Anche lì credo grandi piante. Era il tuo, unico Scegli Me. Era il mio unico Scegli Me. Ovviamente, essendo un pezzo dei Finlay di Legnano, sì. Io lo sapevo tutto, ma io sono sicura che se lo intoniamo tanti. Prima ce l'ha cantato. Prima ce l'ha cantato. Un po' di campanilismo verso Legnano che quasi ci piace. Blu metallici. Ok. E poi non lo sappiamo nessuno, solo tu Marzi. Purtroppo in questa tavola rotonda sei in minoranza. Ma dai raga, era un pezzo proprio medie, cioè era il pezzo medie. No, io me lo ricordo, però non è che lo so. Pare che Luca Bianchi, ad esempio, lo conosco certo, molto bene. Qui è tutta la cricca di Legnano, ragazzi, che si alza. Vabbè ragazzi, però Legnano, dai, Legnano, insomma, ecco, un po' di scelta. Cioè, più che Legnano, i Finlay, cioè non è tanto esatto, il tema di Legnano. Infatti. Vabbè ragazzi. Allora, Canzone ci apriva un mondo, perché a parte che la canzone dice di qualcun altro che deve prendere la scelta e non tanto i Verdena, ma Scegli Me, quindi è qualcun altro che deve decidere in questo caso. Cioè Sure Verdena dice Scegli Me, esatto. Lo piccia il signor Verdena, dice io me. Ci sono, Scegli esatto. Me, ok, figo. E quindi il primo tema che andremo a snocciolare insieme a voi è proprio il come prendere le decisioni. Sì. Ragazzi all'ascolto, mi raccomando, statemi molto sul pezzo, perché come nelle interrogazioni a scuola a un certo punto noi viene vi chiameremo estratto un numero random, vi chiameremo, ed è un numero di telefono tra l'altro. Ascoltateci ma pensate, perché esatto, noi vi facciamo anche riflettere. Esatto, quindi il primo tema, come si prendono le decisioni? E quali sono i modi in cui queste decisioni possono essere prese? Spezziamo un po' il ghiaccio. Voi? Vai Fede. Inizio io? Vai. Io decisioni sul momento, sì, non particolarmente ragionate, cioè nel senso ragionate ma non con tanta sofferenza e tanto ragionamento portato dietro, e mi verrebbe da dire... Quindi de panza, ma un po' pesate, ecco, così. Marzi? Maturo. Io odio scegliere. Io odio fare delle scelte. Vorrei sempre che gli altri scegliessero per me. Molto bello questo. Questo per sottolineare la mia grande personalità. La mia grande personalità, no? No, Marzi, non ti buttare giù così. No, odio scegliere. Sono dei momenti che mi mettono molto in crisi. Maturando un po' Quel giusto ci provo, sono abbastanza brava ad essere analitica con gli altri, quindi se voi dovete prendere una decisione sono abbastanza brava nel chiamate Marzia alle 3-3-4 ecco, però raga poi voi aiutate me. Invece una roba che odio è tipo scegliere per gli altri, scegliere con i consigli degli altri. Ecco, io mi tengo tutto abbastanza per me. Ma lo sappiamo, Fede, questa cosa prima o poi l'affronteremo, ok? Sì. Prima o poi mi viene strano andare a chiedere a qualcuno: oh, zii, ma secondo te io cosa dovrei fare? Lui mi dice: ma cosa dovresti? Cioè, tu dovete sapere che Fede è un'isola nella mia testa. Sì. Il che può avere degli aspetti positivi. Esatto. Le isole negli occhi. Esatto. Vabbè, io invece Tiziano Ferro. Bella, infatti è una bellissima città. Io non capisco perché Tiziano Ferro non l'abbiamo ancora messo. Neanche Dua Lipa. È vero, no, Dua Lipa sì. No, non l'abbiamo mai messa. Perché poi ti fai le seghe per quello che adesso non ve lo dirò, però sono molto offeso. Ok, vabbè, io invece scelgo. Allora, premessa, hai figlio totale, nel senso io odio scegliere, ma odio scegliere anche cosa mangiare, per dire. Me lo giustifico con un sano entusiasmo per tutte le cose, che quindi mi dico vabbè affanculo, però quando devo proprio scegliere, cioè tipo pistola puntata alla testa, non posso fare altro, bivio, devo proprio prendere una strada, e faccio quella classica cosa un po' da boomer dei pro e contro. Ah, la lista. Listarella per iscritto, tra l'altro. Ah, per iscritto? Sì. Wow. È perché mi chiarifica le idee. Sì, è un po' creepy. Ti metti lì, forse e è un po' dici autistico. Perché sì, perché no? Proprio pro, trattino lungo in verticale, contro. No, io devo dire che alla fine non l'ho mai fatta, ma perché alla fine tante cose aspetto sempre di essere vittima di decisioni altrui. Ok, questo anch'io. Comunque io ci provo fino alla fine. Ma quello è appunto lo standard. Quello è lo standard. Okay, sì, se certo. Poi proprio ci si aspetta una decisione da me, allora in qualche modo forse sono più... razionale, devo dire, più che di pancia, però mi piacerebbe mi piacerebbe raggiungere quella metà in cui prendi una decisione di pancia tendenzialmente, sapendo che hai una confidenza talmente alta in te stessa, nel senso che ti fidi del tuo modo di valutare gli effetti, le conseguenze delle tue scelte, che sai quanto incideranno su quello che ti circonda. Probabilmente sono 20-30 sedute dallo psicologo per almeno 45 anni più o meno. Ok, perfetto. No, scherzo. Banca, questa è la mia chiamata di oggi. No, è molto bello quello che dici, sarebbe penso forse l'obiettivo di tutti arrivare a una roba del genere. Comunque abbiamo fatto una piccola disamina e analisi dei grandi cluster delle persone che decidono. Giusto? e anche dei grandi, com'è che li abbiamo chiamati, Marzi? Dei grandi nemici? I grandi villani. I grandi villani. Che vi prego, a questo punto Legnano mi saprà dire che sono... ditecelo, che cosa sono i villani? No, è una parola che mi fa veramente ridere, il villano. che poi mi ricorda anche un po' villaggio, in fondo. Ma da lì è vero. Certo. Il villano del villaggio. Comunque, va bene. Questo qua è proprio da articolo, cioè nel senso da quelle cose che trovi su YouTube. Piccolo momento serietà. Esatto, sì. pam, i quattro villani, a.k.a. nemici, a.k.a. antagonisti del prendere decisioni. Esatto, a.k.a. maleducati. Quattro villani a cui stare attenti. Sembrano gli scapolottino numero uno. Esatto. Uno, villano numero uno, narrow framing, cosa vuol dire? Avere una visione un po' stretta della situazione della domanda che ti stai ponendo. E allora, per esempio, il nostro amico villano ci potrebbe ingannare dicendo dovrei interrompere questa relazione. E tu ti devi chiedere, tu che conosci, riconosci subito il villano. Che arriva tutto vestito di nero. Ehi tu villano, forse volevi dire come potrei migliorare questa relazione. Con il ditino alzato indice. Magari un risultato potrebbe essere interrompere la relazione. Ma magari no. Guardala, ampio spettro. Villano numero due. Pensare a... emozioni di breve termine, cioè per esempio se ti offrono un nuovo lavoro, per esempio, e ti dicono guarda farai tanti più soldi rispetto a quelli che fai adesso, mica tu ti agiti tutto e dici subito di sì. Attenzione, emozioni veloci, emozioni veloci, ma che nascondono, precoci, esatto, bella, feroci questa. Forse anche. Feroci, emozioni sì. Feroci, quelle che si fanno prendere un po' dall'ansia probabilmente e anche dall'entusiasmo, dal overexcitement iniziale, però non vai a valutare quello che dicevamo prima, quindi va bene il gut feeling, un po' superficiale. Che si nasconde alla prima lettura. Sì, no, che poi a un certo punto questa emozione finirà, perché a meno che non ti diano veramente una valigata un botto di soldi allora villano entra pure, ceniamo insieme. Prendimi tutto. Villano numero 3. Villano numero 3 è quello che chiamiamo che gli esperti chiamano il il confirmation bias. Cosa vuol dire? Il confirmation bias vuol dire che io ho già preso una decisione. Sì, nel mio retrocranio. Sì, esatto. Forse. Cioccolato o fragola, io so che andrò per il cioccolato. Sì. Ok. Però, cioè, sono un po' lì nell'indecisione apparente, perché nella mia pancia in realtà voglio tanto il cioccolato. Sì. Ma sono un po' lì nell'indecisione e dico, Fede, è vero che la fragola fa fregare? Fa male poi la fragola, le fibre. Quindi ci mettiamo in testa delle convinzioni auto, diciamo, definite da noi stessi per portarci a prendere quella scelta là. E che, però cerchiamo una sorta di conferma dagli altri. Ma tra l'altro... dagli altri o anche tipo tentando prove. Delle prove delle che sono... delle giustificazioni un po' velletose. Cioè, sì, che però vanno sempre a parare lì, no? Vanno certo. A confermare il nostro... È la prova del 9 fatta da se stessi praticamente. Sì. Che quindi tendenzialmente si bara. Tinovizzi, infatti. Esatto. Il barone, questo il è il barone. Sì, sì, va bene, sì, mi piace. Io quando facevo la prova del 9 elementare facevo sempre tornare il conto. Perché vedi, barone, sì, barone. Ta ta ta ta, e tornava sempre. Sarai mica un villano. Forse sì. Ok. Ultimo villano. Ultimo villano che troviamo alla nostra porta, sulla mia porta. Si presenta tanto spesso, però questo esiste, è un villano che c'è. È il villano dell'overconfidence. Cattivo, un villano molto cattivo, perché qui è tu che sai già come andrà a finire, tu cioè, lo sai, tu pensi di sapere, pensi di sapere, esatto, quindi tu pensi che ad esempio in che ne so, devi appunto lasciare la fidanzata perché sai già che tanto ti tradirà, che sai già che tanto ti andrete a vivere in due città diverse, andrete già, esatto, più. Sai già che lei forse magari nel retrocranio ha ancora quel sogno di andare a vivere a Bruxelles. Vabbè, dai, quello dal petto un po' gonfio in qualche sì, modo, no? Quello che sa già come andrà a finire e quindi non si ascolta. Quindi, se state camminando per il sul marciapiede e vedete uno di questi quattro villani scappate. Che vi si avvicina, scappate. Poi nascondetevi in un androne o giratevi, attraversate cambiate strada e state alla larga. O quanto però è importantissimo saperli riconoscere. Ma ragazzi, vogliamo chiamare qualcuno per chiedere così a bruciapelo quale villano è? Sì, intanto che componete il numero, io vado a leggere un pochino quello che la chat infiammata ci sta dicendo. Allora abbiamo la Madda che dice che odia i menù dei ristoranti, vorrei al massimo 3-5 piatti. Sono d'accordissimo con te, Madda. Anch'io tanto proprio. Non farei mai questa cosa in maniera diversa. Datemi poche scelte senza problemi. Anche perché poi soprattutto a volte sono, cioè io dico io prenderei tutto, quindi poi o divento l'omino dei Monty Python, quello che poi esplode quella mentina, esatto. oppure obiettivamente esatto. Che palle. Poi abbiamo sempre Luca che ci dice villani uguale maleducato, quindi lo conosce anche lui, lo sa, però dice anche spero che Marzi non abbia detto villani uguale quelli di Villa Grande. No, non l'ha detto, giuriamo. Forse l'ha pensato, no. Ma non ce l'ha detto. E poi il Dama dice serve una birra per decidere bene. Ha ragione, in ogni ha ragione. Caso, questo è l'angolo. Che sia di pancia, che sia di alcol. Alcol. Sì, poi un po' di giustificazioni varie sul serve le candele, un po' di palo santo. Beh, il palo santo serve sempre. E poi c'è la Vale Paruz che dice ma tipo Kahneman. Io non ho capito la domanda perché non conosco Kahneman. Però forse Vale, dopo ti chiamiamo per esatto. chiederci ma cosa. Ragazzi, fa. Io vado, sto Vai, per chiamare. Chiamo. Io chiamo, vado. Non diciamo chi stiamo chiamando. Amico so. O amica a casa. Speriamo controlla il telefono. Sentite anche il tu, raga, che bello. Sì. Sentite il telefono. Ma dove l'avete messo? Eccoci. Amo. Ciao. Beh, anzi, ciao, proprio che sei arrivata questa chiamata, ma non lo sentivo proprio, guarda. E anzi, allora, ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, no, veramente siete troppo bravi comunque, non so se le posso dire, ma complimenti, veramente. Puoi, ma puoi, dirlo, puoi dirlo, puoi scrivercelo, puoi mandarci una mail, una lettera. È che io non sono molto tecnologica, per cui dicevo che io Telegram non lo so usare, per cui meno male che mi avete chiamato per poter interagire in questo modo. Siamo contentissimi. Non ho capito il nome però. Elisabetta. Ciao, Elisabetta. Allora Elisabetta, non so se ci hai seguito finora, ma penso di sì. I villani, nel caso in cui mi state per fare una domanda sui villani, dovete riassumermi. Allora. Va bene, allora vai Marzi, villano numero uno. Villano numero uno è il avere, porsi delle domande sbagliate, quindi dire, chiedersi lo dovrei lasciare o forse come posso far sì che questa relazione vada meglio? Quindi porsi le domande sbagliate, villano numero uno. Villano numero due, prendere già una decisione e trovare delle prove che la confermino, però in realtà già lo sai. Villano numero tre, lasciarsi ingannare da emozioni di breve termine, tipo... Ovviamente, guarda Marzia, ti fermo subito. Brava, mi piace. Sappiamo già che è il mio villano, il tre, numero tre. Va bene, ce l'abbiamo. Quindi dici un po' come funziona per te. Ma per me funziona che vivo di... cioè, da sempre sono molto felice, molto entusiasta, sin dall'inizio e poi... muore. Diciamo che... cioè, credo molto nelle persone, credo molto nelle situazioni, credo molto... sono molto ottimista e cerco di vedere sempre il bello in tutto. Diciamo che molto spesso dire che vengo delusa non è così, semplicemente mi rendo conto che forse avevo delle aspettative, ecco, che andavano oltre. Oddio, io oltre ti capisco, forse ti capisco, forse anch'io sono come te. Forse anch'io sono come siete te. Siete malate del terzo villain. Io sì, forse sì. Forse sì, ti capisco totalmente. Ingannate dal terzo villain. Sì, sì, sì. Va bene, va bene. Grazie mille per la tua testimonianza. Vuoi dire qua, vuoi salutare a casa? Sì. Sì, saluto tutti, non so chi mi sta seguendo, ho detto a mamma Elena Mori da Legnano di seguirci, ma temo che farà già dormire, per cui saluti a tutti gli altri. Un bacio. Ciao Luca Bianchi, soprattutto. Ciao. Ciao, ciao, ciao, grazie mille. Ciao. Ciao. Raga, questa cosa delle chiamate mi gasa tantissimo. Mi piace tantissimo. Molto, anche possiamo, a me. Possiamo cambiare, ragazzi, completamente il nostro format però, per sempre. Cioè, voi altri che ci state seguendo, stateci, perché sì. I prossimi potresti infatti, essere grazie, tu. Grazie, tu, per tu. Essere stata il nostro, la nostra prima vittima. Tra l'altro io mi prenoto per la seconda. Vai tranquilla, okay. Vai tranquilla. Quindi puoi, amici puoi prenotare. Miei, e di cagatevi e addosso. E di fuori dal comune. Esatto, amici esatto, di tutti i tipi. Va bene, mettiamo un pezzo. Mettiamo un pezzo. Abbiamo scelto questo pezzo perché spesso noi non vogliamo prendere decisioni e speriamo che ci sia qualcun altro che le prenda per noi. In questo caso, come ci insegna il buon Drake da Toronto, spesso capita che ci sia un God's Plan in cui, come dire, sperare. Uh-huh. E quindi vi lasciamo con God's Plan di Drake. They wish and I wish and I wish and I wish and they wish on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Don't tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside heat. And still bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, nope, ayy. Someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, ayy, roll, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah, yeah. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah. Zue. Oh, ma sapete che io ascoltavo un botto questo pezzo perché un botto questo pezzo quando ero vivevo nella... a Lignano. No, a Treviso. Che dopo anni di disperata ricerca mi avevo un letto meraviglioso comprato con i miei soldi, ero fierissima di quel letto. Oh my god. E in questa canzone a un certo punto lui dice I only love my bed, my mom, I'm sorry, sorry. E io ero esattamente così. Dice, parla di me, Drake. Esatto. Ero io. E amavo tantissimo il mio letto, purtroppo è durata pochissimo perché poi mi sono trasferita a Milano e nella mia camera di adesso non ci entrava. E l'ho dovuto lasciare là, ma è stato... Questa sì che è una breve storia triste. Sì, mamma mia. Sì, raga, sì. E soprattutto non mi sono mai sentita così adulta nella mia vita come quando mi sono finalmente potuta comprare un letto che non ho comprato da Ikea. Io molto innamorata del mio letto, qui lo dico. Secondo me è il letto più comodo del mondo. Io il mio letto lo lascio a mia sorella adesso che cambio casa. Quindi okay. Non è un grande amore, devo dire. I only love my bed, my mom. I'm sorry. Benissimo, ragazzi. Allora, oltre a cagarvi sotto perché tra un po' vi chiamiamo, andiamo avanti. Quindi abbiamo visto i cattivi o i villani. Del prendere le decisioni. Ma quando i villani amano venirci a suonare alla nostra porta? Quando bussano alla porta i villani? O quando li incrociamo per strada, giusto, sul marciapiede. O quando mamma sbucano da sotto il tavolo mentre tu stai mangiando la mi tua vita. Però così. Vabbè, raga, però sono villani. Cioè, anche possiamo. Sono villani. Sono cattivi. Bisognerà dargli un contesto cattivo. Ma esatto, quando? Quando succede questa cosa? Quindi, quali sono le decisioni difficili della. Io ce l'ho. Della vita nostra. Ora, possiamo fare un piccolo disclaimer per questa cosa sì, qua? Sì, facciamolo. Facciamo un disclaimer che ci pare giusto fare. Giusto. Parlano tre persone. Mamma, che democristiano che sei. Parlano tre... No, no, perché poi magari dai, dicono, scherzo. Ah, saranno questi è i problemi. Giusto, poi è ci scrive, Scanzi, dice, ah, perché secondo voi sono Scanzi, questi i problemi. Scanzi, se ci stai ascoltando, vai tranqui che partiamo col disclaimer. Scanzi, se ci stai ascoltando io ti odio. Ok. Comunque, detto questo, piccolo disclaimer, ovviamente stiamo parlando un po' per ridere, un po' per così, cioè, sono comunque problemetti. Sì, ma se fa per ridere, raga, se fa per ridere. Parlano tre persone wealthy, parlano tre persone che diciamo stanno bene. Che stanno bene. First world problems, esatto, mi verrebbe da dire. First world problems, io comunque farei una parentesi sul wealthy. Wealthy, cioè nel senso... In che sta? Mezzo beh, wealthy. Nel senso, siamo sicuramente alla media mondiale, esatto, nel 5% dei più ricchi del mondo. Va bene, quindi. Non vorrei che nessuno di voi si presentasse alla mia porta a dire, oh, dammi i soldi. Oh, Marzia. Voi villani. Voi villani. Arriva il villano numero 2 col portafoglio vuoto e dice, oh. Ma perché troia? Ho speso tutti i miei soldi per il letto. Per il letto. Coglione. Va bene, raga. Allora, sti cazzi di villani. Io ce l'ho. Vai, allora, per il tuo villano. L'università. No, il tuo villano non sono più i villani, sono tutti villani. Dicevo, ah, okay. Il mio villano mi si è presentato alla porta nel momento in cui ho dovuto scegliere l'università. Esattamente come la nostra amica Elisabetta, presa da un attimo di emozione, euforia e entusiasmo, decido di fare legge. Come la nostra amica Elisabetta, peraltro. Vedi, io e lì così, due cuori. Quindi possiamo già tirare delle conclusioni che il villano numero 3 è amico di chi fa legge. Potremmo. Ok, un po' tirata. Non dovrebbe, perché chi fa legge in realtà dovrebbe. Oh, esatto. Vabbè. Insight. Vabbè, io comunque sono entrata in sbattone. Ho deciso che, però, non so. Con mio padre che mi diceva: ma sei sicura? Ma te la legge? Ma sei sicura? Però dici una cosa: qual è la cosa che ti ha preso? Qual è stata quando il villano è arrivato lì con l'emozione veloce che ti ha detto fai legge? Cioè, qual era la cosa che ti piaceva della legge? Che allora, giustizia? Grazie per la domanda, anzitutto grazie. Io la so, la donna in carriera in tailleur. Esatto, sì. Sì, era il tacco e la divisa che mi tirava. No, scherzo. Potevi fare quella della polizia locale, diciamo, il tacco 2, la divisa. ACAB sempre. Sì, esatto. Ok. No, allora, magari è un po' da sfighe, lo dico, però pensavo che potesse essere, anzitutto, un'università molto formativa, perché comunque la giurisprudenza... E che quindi mi sembrava un lavoro serio, ecco, l'ho detto. Non avevi pensato al fatto che non avresti mai trovato lavoro, poi, forse? No, ma pensavo che fosse un lavoro serio. Ah, ok. Ecco. Studiare. Poi, studiare. Ah, okay. Ma cosa fai nella... No, cioè, ma tu... Non mamma. Ma cosa fai nella vita? Studio legge. Insomma, così. Chapeau. Mio padre, che aveva perfettamente capito il mio villano, mi diceva, ma che cazzo stai facendo? E aveva ragione. Sì. Quindi per me è l'università. Brava Marghe, è una scelta sicuramente difficile, anche perché posso dire, nessuno ti ha, cioè sei da a parte le tue famiglie, bravo. Sei da solo in un mondo di libri e di fascicoletti e di internet, poco all'epoca, almeno. Ma infatti possiamo dirlo, Istruzione Italiana, se ci stai ascoltando, sì. In qualità, cioè, di essere una villana, sei una cazzo di villana, cioè, no, fai qualcosa. Però fai qualcosa, non si può buttare tutti i ragazzini così alla cazzo di cane che non sanno neanche cosa fare. E poi dopo 4 anni ci lamentiamo che non c'è lavoro. Allora, certo, se facciamo fare tutti gli architetti. Però spezzo una lancia a mio favore, dove va bene, qui mi sono fatta prendere dal villano, però poi a un certo punto ho scelto di smettere. Che è ancora più difficile, forse, secondo me. Molto difficile. Infatti è stato molto difficile. Ma lo racconto. Poi chiudo questa parentesi un po' privata. Ma ci piace, però, il privato, vai tranquilla. Che ho deciso di mollare giurisprudenza, che ero al quarto anno, quasi quinto, praticamente. Cioè, eri a pagina 931 del codice civile. Bravissimo. Okay. Con un esame nello specifico, che è diritto fallimentare. No, ma non è geniale? Sì, appunto, cioè, perfetto. Cioè, con diritto fallimentare ho detto, vabbè, mo... Io ho detto, io ho il diritto di fallire, tra virgolette. Esatto. Tra virgolette. Esatto. E me ne vado. E me ne vado. Ciao, legge, ciao, belli. Fanculo. Marzi, tu? Io sono sempre scappata. Ho sempre sonno. Scusatemi. A me piace molto questa vena. Io non lo so se ho mai preso delle decisioni. No, vabbè, ma tata. Questa radio sta diventando una specie di angolo di supporto psicologico a Marzi. O di tortura. A seconda. Io... No, non lo so. Allora, infatti qui volevo giocare un'altra carta. Allora, per me è sempre molto, molto difficile scegliere in generale. Ogni tanto, ovvio che poi le scelte a volte le facciamo senza anche non scegliere. È una scelta. Comunque, anche io a un certo punto ho scelto l'università, ho scelto il lavoro che volevo fare. Comunque l'ho scelto una volta sola, perché poi ho sempre fatto solo quello. Che però è cambiato tanto negli anni. Massima, io sempre l'aereo. Poi scelgo di mettermi a fare tante cose, ok. Però scelte vere, grosse nella vita, devo dire che ne ho fatte poche. Vabbè, ma il tuo villano perché dov'è? Il mio villano è questo, io scappo. Ah, ok, tu scappi. Questo è il mio villano. Scappare, però devo dire che, però, per esempio, per me una scelta che mi mette molto in difficoltà è la scelta di chi votare a un certo punto, no? Vero. Tutti gli anni ci dobbiamo scegliere chi votare, io a volte mi metto, nonostante io segua e mi appassioni e tutto l'anno mi... discuta della cosa, poi dopo dentro la cabina elettorale vado tutto un po' in sbatti. Presidente. Esatto, e dico, cazzo, chi voto? Però, cioè, per spezzare una lancia a tuo favore, purtroppo sta diventando sempre più difficile sceglierlo. Sì, poi ogni tanto io poi sono vittima del villano della gioventù. Sono stata vittima del villano della gioventù, quindi sempre, io voto una giovane. Poi dopo mi è capitato di votare gente giovane e dico, ma chi cazzo ho votato? Ho disperso il mio voto. Esatto, quindi faccio mille paranoie. Bello però, mi piace il villano che scende fuori nel voto. E tu, Fede? Beh, io anch'io non è che abbia mai preso grandi decisioni in vita. Beh, raga, devo dire, messi bene tutti. Non mi sono mai trovato nella situazione di scegliere cose pesanti, se non appunto l'anno scorso, quando poi ho comprato casa. Beh, che era, sì, che però è stata una neanche una valutazione economica, è stata una cosa, un momento di vabbè, vediamo come mi danno il mutuo, non mi danno il mutuo, vediamo cosa fanno. E lì ho scelto, poi facendomi, sai, quelle classiche cose, no, però se io rimanessi in affitto per tutta la vita, oppure se dovessi comprare, è una sorta di pro e contro questo, dai. Questo secondo me è un villano delle cose che fanno gli altri prima che comprano. Prima che comprano, no, nel senso che tipo mi spiccio perché se non la comprano. No. Era tipo, cioè, ho sentito che altri hanno fatto questa valutazione, quindi la faccio anche io, perché potrebbe portarmi a qualcosa. È il villano che copia, è il copione. Ecco, sì. Io, secondo me, se dovessi avere un villano, ho il villano copione, nel senso che qualcuno ha fatto questa cosa per prendere una decisione, quindi prova a passare da quella via e vedere se qualcuno. Vabbè, ma possiamo dirlo che copiare è un'arte? Ma è bellissimo. Hola. Esatto. È bellissimo, allora copiare. Tutti i villani sono invitati a cena da Fede. Sì, esatto. A casa di proprietà. Quando finirà la zona rossa e la zona grigia. Ma ragazzi, intanto che digitiamo il numero. Sì. Qualcuno ci scrive in chat? No, beh, qualcuno, no. Allora, abbiamo una dissertazione della Vale Paruz, che ci ha spiegato nella nostra ignoranza cosa fosse Kahneman. E raga, andatevi a leggere Kahneman, perché pare un genio pazzesco questo raga. E di base il riassunto proprio ignorante e stringatissimo è: il sistema impulsivo e razionale delle nostre decisioni combattono una battaglia costante dentro di noi. Mamma, bellissimo. Ciao. Poi la Paruz è andata a mettere a letto i bimbi, quindi non ha potuto sentire questa citazione in diretta, ma grande. E no, dalla chat, no, niente, allora nessuna. Yeah, inizia a fare il mi ha scritto che il suo villano sono io, che quando ero piccola comunque le volevo far fare lo scientifico. Le sorelle ci vogliono bene, perché mia sorella ha scritto: dovete sapere che Fede ha dei problemi. Non so legato a quale momento esattamente sia arrivata questa cosa. Io vado, intanto. Vai, chiama. Non diciamo tu, chi stiamo amico. Chiamando. Sentiamo il tu, che mi piace tantissimo. Non so. Sì, si sente. Stiamo chiamando qualcuno. Tenete il telefono sotto occhio. Pronto? Eccoci! Allora. Ciao! Giuse. Pepi anche. Ciao Pepi. Pepi. Come stai? Benvenuto. Io molto bene. Cosa stai facendo? Grazie a voi per avermi invitato. Sono qui a tavola con la mia concubina a bere dell'ottimo vino. Oh, finalmente, questo è sempre il mio sogno. Si realizza il sogno di Marzia. Sempre gli ascoltatori così. Eccoci. E infatti ce li abbiamo così, vedi? Va bene, Pepi. Vuoi parlarci o delle decisioni che hai preso nella tua vita? Puoi deciderci. Una decisione difficile. Esatto. Secondo me puoi decidere o di dirci qual è il tuo villano, sì, oppure quando il tuo villano si è mostrato alla porta. Allora, io vi ringrazio innanzitutto per questo resumé, perché vi ascolto con molto ardore e passione, ma non avevo ben capito la traccia prima che mi chiamaste. Va bene. Sono molto lo prendiamo come feedback. È colpa mia. Ok. E a questo punto, cioè, quella è stata devo la... dire che vai. Vai. Rispetto all'ultimo villano che è stato descritto da Marg, mi ci ritrovo parecchio. Questa sembra un po' cioè la risposta di quello che non ha studiato. Quello l'ho detto. Vero. Vabbè, a questo punto però, Pepi, la più difficile decisione che hai preso oggi. Ma soprattutto, come ti senti davanti alle decisioni? Sì. La più difficile decisione che ho preso oggi è stata quella di alzarmi dal letto. Buono. Ed è già una grande decisione. Qui notiamo dei livelli di serotonina comunque bassi nella popolazione. Esatto. Governo, se ci stai ascoltando, mandaci la serotonina, per piacere. E come ti senti a riguardo? Cioè, come ti senti quando prendi una decisione? Cioè... Di base abbastanza scosso, tendente al triste, perché so che per ogni cosa che scelgo c'è un'altra che lascio. Esatto. Questo, io ero una bambina che voleva sempre tutto e quindi non sapeva prendere decisioni, perché io volevo tutto, io volevo sia la fragola che il cioccolato, e quindi è così, io non riesco a rinunciare. Ognuno di noi trova l'alter ego di se stesso. Io ho trovato Elisabetta, Marzia ha trovato Pepi, chissà chi troverà Fede. Esatto. Vedremo. Va bene Pepi, grazie, mi raccomando la prossima volta però seguici un po' meglio, perché mi fai fare delle figure di merda orrende. No, ma va bene anche così Pepi, alla fine... Però è bello della diretta, perché alla fine se avessi studiato non sarebbe stato così sincero. È vero. Paraculo che non sei altro, questo è il tuo villano. Grazie Pepi, un bacio. Vino anche ciao, per ragazzi, noi. Ciao Susi. Ciao. Vi saluto anche lei. Ciao. Bevi il vino anche per noi, anche perché noi abbiamo qua una serie di focacce sempre che non ci hanno regalato, esatto, e non abbiamo nulla da bere. E stiamo tipo per morire. Ma dai, soprattutto Marzi sembra essere entrata da questo panettiere che si chiama, scusate, giusto per fare della pubblicità, non lo sappiamo, è il panettiere di San Gottardo. Ok, panettiere di San Gottardo. Cioè lei è entrata dentro e ha detto: scusi, mi può dare le cose più salate che ci siano? E anche quelle più dolci. Quindi insieme ha preso non solo la focaccia con sopra la pancetta, cioè una roba che se non hai un goccio d'acqua, mori. Sì, difatti sarebbe bello come in Twitch che ci sono, fanno le donazioni, in realtà ci regalassero delle bottigliette d'acqua che cadono dal cielo. Bello, bello, un giorno lo facciamo. Sì, sì, sì, sì. Ma no, volevo dire che a me piacerebbe trovare un decision lover. Non ce l'abbiamo tra i nostri contatti. Follower. Definisci, non abbiamo uno di voi che dice sì, io non vedo l'ora di trovarmi davanti alle decisioni perché io sono talmente overconfident che il mio villano è l'overconfidence, okay, e quindi mi piace proprio prendere il caso a prendere decisioni. Merda, questo è un bel mostro, Io non credo di conoscere che ce l'ha tra i propri amici. Nessuna persona così, mi sa. Vabbè, va bene. Tu ascoltatore ti autodefinisci. Però possiamo dire una cosa, raga, che noi forse abbiamo nella nostra testa il prendere decisione come una cosa un pochino negativa, forse mi sta venendo un da pochino dire. Esatto, cioè qua abbiamo una che scappa, l'altra che si fa prendere dall'entusiasmo. Infatti, dico, mi sembra un pochino negativo. In realtà, cioè, decisioni fanno un po' quello che c'è. Sì, ma c'è quello lo sgargiante che dice: ma a me che cazzo me ne frega? Me tanto la prendo oggi, la prendo domani e poi la prendo anche dopodomani. Come direbbe non so chi, anche questa è vita. Come direbbe non so chi. Vabbè. Ottimo. Vabbè, forse mettiamo forse Fabrizio Moro. No, vabbè. Marzi, tra i come si chiamano i Finlay e Fabrizio Moro, forse è meglio se la chiudiamo qui. Cioè, nel senso, tutti la chiudiamo in una stanza. Citazioni di Moro e cercava Aldo, solo che è venuta fuori la citazione di Fabrizio Moro. Cosa bella, bella, un po' gugliana come battuta. Sì, va sì. Bene, mettiamo un pezzo. Vabbè, mettiamo la mia band preferita. Che ci apre anche al prossimo tema, che andiamo ancora più nel dettaglio del fantastico tema dell'amore. E mettiamo un pezzo che ho già caricato, quindi lo stavo ricaricando per sbaglio. E non si dicono queste cose. È un pezzo degli Arctic Monkeys, il titolo è Why You Only Call Me When You're High, che banalmente significa perché mi chiami solo quando sei alterato. Fatta. Alterato, alterata. Ah, no, questa è proprio fatta. Sì, no, era alterato nel senso con la psiche alterata o con alterato. No, sei fatto come una pigna, è diverso. Va bene. Mettiamo il pezzo. The mirror's image tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple miscalls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple miscalls and to my message you replied. Way. Alex Turner, sposami. Sposala. Madonna, ragazzi, comunque brillanti. Raggianti. Dobbiamo sempre prendere le focacce. Forse sì, forse è il sale. Forse è il signore di San Gottardo che forse mi sta con le occhiaia. Mi è tutto va. E ti ha fatto, e t'ha fatto, c'è la focaccia, t'ha fatto la focaccia via gola, t'ha fatto. Ti ha fatto la junta in via gola. Per lei, bello. Via gola. Tutti sì. Fatti. Focaccia via gola, si vola. Si vola, bene. Va bene. Ora entriamo in un tema annoso. Annoso. È stato il primo tema che abbiamo scelto al momento che abbiamo detto decisioni. Quindi di cosa parliamo? Ah, parliamo di questo subito, abbiamo detto. Perché era... noi siamo la redazione del CIOE. Esatto. Maria De Filippi mi fai una pippa. Noi siamo la redazione del CIOE e ci teniamo tanto a sapere un po' le vostre situazioni e le nostre situazioni e le situazioni di tutte, sentimentali o non. Di tutte. Che siano. Quindi parliamo, introdotti da il futuro marito di Marzia, di quella zona grigia, assolutamente grigia, non perché triste, ma perché grigia, perché indecisa, del quella fatidica domanda che è capitata almeno una volta a tutti noi, o a tutti voi e a tutti essi. Dilla tu. Ma noi, che cosa siamo? Ah. Il discorso. Sì. Il brivido lungo la schiena. Le ciabatte che arrivano dal corridoio. Questo studio di suoni dobbiamo renderlo un po' parlare. Più. Dobbiamo parlare. Anzi no, dobbiamo parlare no, perché ti stai prendendo male. Infatti, no. La zona grigia, aspetta, disclaimer. Sì. La zona grigia non intendetela come una zona di merda, è semplicemente quella zona in cui stai ancora, come dire, tastando il terreno, sei ancora lì che dici allora, posso dire di la verità? Esatto. Piena di villain, secondo me. È proprio quella zona che è piena così. Sì. Così. Tu a parlare col tuo partner, ma intorno a te c'è un botto di gente che sembra di essere nella metro all'inizio del 2020. Oddio, valeva. Che ti tocca qua. Allora, però devo dire che quando senti la necessità di fare il discorso... ma ha sbagliato Fede, non è il discorso questo. È un po' di discorso, secondo me. Posso dire che io non l'ho mai fatto? Ok, puoi dirlo. Io questa cosa non l'affronto, perché sono più tipo, vedi come vai, basta. Però non è detto che dall'altra parte è sempre vediamo così. Vediamo come vai, basta, cheat. Esatto. Posso dire, vediamo come vai, basta, cheat. Chi? Vediamo come va e basta. Dai raga. Ah sì, è vero, è una canzone, non mi viene in mente, ve lo diciamo two dopo. Fingers. Sì, forse Two Fingers. Se amici qualcuno ha captato questa canzone, ce lo dica. E quindi noi dicevamo, è quella cosa vediamo del manuale. Basta, vediamo se in una vita ci si incastra. Sì. Ecco, e io lui. Sì, esatto. O lei, non so chi canti. E quindi, ma alla domanda che può essere posta o anche essere fatta capire. Sì, però ha ragione Marzi, se la poni direttamente fa un po' ansia. Sempre. Fai un po' tipo, ma scusami, ma noi che cosa siamo? No, vabbè, non la affronti in questo modo. No, cara Margherita. Sì. No, ma io non io seguo il flow. Tu segui il flow, ok, sei stata fortunata. Io a un certo punto dovuto, anche se anche io ovviamente che sono una... flow follower. Follow the leader, esatto. Follow the leader. Io follow. A un certo punto però ti ritrovi in delle situazioni in cui dici mo o ne parliamo oppure forse non ha... cioè o senti il fatto che siete non ne parliamo, su due piani un po' diversi. Però io in quei casi sono nel mod tipo o la va la spacca, cioè nel senso seguo il flow, vado, poi a un certo punto naturalmente si arriva a quel bivio lì e poi come va. Però Marghe, se facciamo finta un gioco, no? Che tu sei tipo, o tu o lui o lei, siete uno dei due mega presi. Ah no, vabbè, ok. Questa è una situazione di rischio. Esatto, va bene. No, okay. Comunque era Entix, dice mia sorella. Ah, ecco. Grazie, Entix. Vediamo come va e basta. In effetti no, io parto da delle condizioni equiparabili. E pari. Cioè di paro lavoro mentale, fisico, emotivo. Che non è però la situazione che capita più spesso, possiamo dire. È vero. Esatto. È vero. Quindi diciamo che come diceva Marzia, quando entro in quel livello lì c'è una situazione, mi verrebbe da dire, sbilanciata. sì, sì, un po' sbilanciato. Comunque tu te la senti un po' sbilanciata, ecco. Sì. E mi verrebbe da aggiungere, se posso, che tendenzialmente chi si trova a fare quella domanda è quello dalla parte più sbilanciato. Oh, esatto, ma è qua che casca l'asino, secondo sì. me. Oh, abbiamo forse disegnato appena adesso una teoria umanistica, raga, fuori follower, smentiteci. Maccia, che ci stai ascoltando, fuori questo libro non lo scriverai tu, sì, ci penseremo noi. L'abbiamo scritto già noi adesso. Quindi la teoria di cui noi stiamo parlando è, per fare chiarezza, per chi come l'amico della Marghe a volte ci ascolta, a volte no, perché ci può stare. E, il momento zona grigia in una relazione in cui a un certo punto ti ritrovi a fare il discorso può essere un momento non facile. In questo momento non facile, la persona dei due che si trova a dire forse ne dobbiamo parlare, non per forza direttamente al partner, perché poi ci sono mille scappatoie, ma all'amico o all'amica dice amo, mi sa che ne dobbiamo devo parlarne con lui o lei di sta roba. E quindi si trova a fare il progetto, il project plan del discorso, cioè proprio si mette lì con le slide aperte, slide 1, questa è la slide mamma, la merda, che ansia. Esatto, probabilmente questo soggetto la prenderà nel culo. Probabile. Bom, era come la canzone dei cani che diceva il primo che... Dai, quello che diceva il primo dei due che dà un bacio e quello che... Ah, vabbè, sì, scusate, il primo che fatta... dopo l'amplesso è quello che ne uscirà male. Tin, tin, tin, tin, tin. Bravo, grazie. Sì. Esatto. Anche quella è una grande teoria. Beh, io ci penso... Io quando l'ho ascoltata la prima volta ho pensato... Oh porca troia. Oddio. Oh porca... Chi ha dato cosa quando? Quindi è un po' così. Beh, cioè c'è anche, cioè, per dire, però posso dire una cosa, c'è anche quella situazione, come dicevi tu, Marghe, che magari si è allineati e si va avanti, diciamo, diciamo, facciamo un pochino di cambiamento di quello che è zona grigia, nel senso che non siamo fidanzati, non siamo amici, però stiamo, cioè, usciamo, siamo insieme. Stiamo frequentando, anche per un botto di tempo, anche, esiste anche, ma anche quella, perché posso dire che a 30 anni, oddio, ho detto 30 anni, vabbè, a 30 anni, boh. Poi io francamente... Poi tu sei appena entrata nel mondo dei 30 anni. Esatto, ma puoi dire tutte le cose mi dei 30 sento anni. Molto rappresentante di lista. Sì. Vabbè, no, dicevo che a 30 anni è difficilino avere il colpo di fulmine, no? Io penso. A parte che per me è difficilino avere il colpo di fulmine in generale, io personalmente credo. Quindi a un certo punto, secondo me, segui il flow, se sei fortunato che siete nello stesso flow, poi quello diventa... Cresce. Può diventare piuma, può diventare ferro, a seconda di come si evolve la cosa. Sì. Però ti faccio una domanda, se dovesse tipo farsi, non so... un periodo un po' più lungo, che può essere appunto un anno, due anni in questa situazione qua, no? E poi a un certo punto faccio proprio un esempio random, siccome non abbiamo mai toccato questo argomento, io ti dico beh, ma noi non, cioè, tipo, non stiamo insieme, beh, ma noi non siamo quella roba che ti hai rimesso in mente tu. Adesso, cioè, tu rischi di dirci, rimanere, sì, vuoi fidanzarti con me? No, però vogliamo dirci siamo esclusivi o no? Siamo esclusivi o no? Andiamo a vivere insieme? Vabbè, andiamo a dividere un altro par di palle. No, però magari a 31 anni, a 32 anni. Cambiare idea la mano. No, io non cambio. A 32 anni magari, cioè tu inizi a frequentare una persona. Non è che seguo il flow vuol dire non ne parlo. No, cioè, assolutamente. Ci sono anche dei discorsi, come dire, non diretti, indiretti. E poi a un certo punto magari mi viene da dirti che cazzo ne so, ti amo. E allora, beh, quello vuol dire già, okay. Certo. Cioè, nel senso, quello che io dico è... difficilino mettersi al tavolo e dire ma cosa siamo, ecco. Sì. Non è che non l'abbia mai fatto, però io non lo vorrei affrontare mai, comunque, se posso dirlo questa cosa. No, è brutto, cioè è brutto. Bene, ragazzi, il momento, cioè, penso che sia arrivato a un termine. Forse dobbiamo chiamare qualcuno. Chiamiamolo. Chiamiamo qualcuno. Allora, la domanda è, per questo qualcuno, cioè, scegliamola già. Se si è mai trovato in una situazione da ma noi che cosa siamo, però un po' peso, perché forse no, facciamoli parlare del villano e delle decisioni. Ci trovavamo più a nostro agio nel sparare dei villani. Forse ci siamo un po' incartati, dovevamo parlare di altro. No, ci sta. Noi portiamo fuori anche i problemi, noi siamo fuori dal comune e tiriamo noi fuori. Noi siamo sinceri con i nostri follower. Esatto. Ma la sincerità Quindi stiamo componendo il numero. Posso dire che bisogna essere sinceri? La chiudo qua? Sì. Con la sincerità... dire che io sopra avevo detto che è una cosa che si fa veramente fatica a dire ed è una decisione molto greve da prendere, è se dire o non dire la verità. Lo posso dire? Ma un applauso. Un applauso. Ah, beh, secondo me sì, la verità anche. Esatto. Ecco, qual è la strada per uscire dal ma noi cosa siamo? È dirsi sempre la verità. Basta, bravi, con questa la bravi. Chiudo. Adesso, io vado, eh. Adesso che i lupetti di Milano io vado, nella loro fila, possiamo fare la chiamata. Villani, andate a prendere lei. Stiamo chiamando. Stiamo chiamando, non sento ancora il tu. No. Tu. Eccolo. Eccolo. Stiamo chiamando. Mi sento, quali erano quelle? Tipo la Clerici. Chiamava la Clerici durante... Tipo anche... Sì, esatto, un po' tutte cose. Pronto? Eccolo! Salve, buonasera. Buonasera. Buonasera, Carlo. Ti chiamiamo da fuori dal comune. Ciao, Carlo. Pensa un po', ciao. Non se l'aspettava minimamente, Carlo. Non me l'aspettavo mai. Minimamente. Beh, a questo punto, Carlo, mi devi essere di un pronto... No, la prima domanda che ti vogliamo fare è, Carlo, hai già visto gli due episodi di Attack on Titan? No, infatti okay, no, perfetto. No, lo sai che infatti avevamo preso un accordo sulla durata di questa puntata. Esatto, infatti la faremo durare meno perché dobbiamo poi andare tutti a vedere Attack on Titan. Perché sono uscite due puntate. Due puntate, una in fila all'altra, esatto. Quindi la grande domanda della giornata, come hai potuto sentire, è la seguente. Ci sono questi villani, amici di Marzia, che sono i cattivi delle nostre decisioni. E volevamo sapere due cose principalmente da te. Allora, la prima, se hai un villano preferito o un villano spreferito tra i tuoi villani che ti perseguitano giornalmente, e la seconda è quali sono le decisioni più difficili che ti viene da prendere nelle tue giornate o anche in generale nella tua vita, ecco. Cioè, domande easy comunque. Non fatti molto complesse, mi sento molto sotto pressione. Ed è giusto che tu lo sia, Carlo. Esatto. Allora, ora devo prendere una decisione rispetto a quello che devo dirvi. Esatto. Allora, ok. Che già è una cosa. È un inception forse questa chiamata, vai. Ma il villano è il mio, devo dirvi, il mio villano o i villani che odio? No, il tuo villano, il tuo villano. Il villano che ti rappresenta. Allora, io faccio outing, dico che io sono un overconfident. Lo volevamo e l'abbiamo trovato. Abbiamo trovato un overconfident. Però mi racconto anche il lato scuro dell'overconfidence. Siamo qui apposta. Perché uno pensa che sono una persona che prende molto velocemente le decisioni. Okay. E quindi uno può pensare che io sia uno molto deciso, no? Quindi, cioè, prendi molto... In realtà io ho paura di... Cioè, non, ho l'ansia di stare in una situazione in cui qualcosa non è deciso. E quindi prendo subito la decisione. Quindi è una maschera, Carl? È una maschera, esatto. Cioè, nel senso, cioè prendo subito la decisione per non avere quella cosa pending che mi dà più ansia del fatto di prendere la decisione e bruciarmi l'altra possibilità. Bellissimo. È una versione alternativa del non prendere la decisione, cioè la prendo subito, esatto, perché me la levo. Dovrei provare questo villano. È il villano del Mome Butto. Sì, vado subito. Io vado. Uno, due, tre. Te. Io. Bene. Okay, esatto, mi piace. E la decisione... più difficile della tua vita? Le decisioni difficili, tipo, non so, scegliere al ristorante, votare, dirsi la verità o qualsiasi altra decisione che ti crea un po' di problemi in generale. Cambiare lavoro? No, ma in realtà ho preso tutte le decisioni della mia vita, da quelle più difficili a quelle tipo dove mangiare al ristorante, con questa modalità ansiogena, e quindi non ho mai avuto decisioni difficili perché... ho sempre cercato di fugare l'ansia di stare in una situazione in cui dovevo decidere. L'immagine che ho in mente sei tu, che non ti ho in mente perché non ti ho mai visto. C'hai gli occhiali, i capelli neri un po' riccioli, okay, mossi. Va bene. Oggi se li era lavati ed erano un po' più particolari. Più mossi, sì, esatto. Perfetto. Ce l'ho sulla punta di uno scoglio che si sta per tappare il naso e si butta. Io ti ho così. Esatto. Tra l'altro lui è un personaggio di mare perché è di Follonica. Vedi? Quindi è tutto attorno. Sì. A Follonica non ci sono gli scogli, però c'è solo la spazzatura sulla spiaggia. Dicono, esatto, le postelle, dicono. Il semestre era la canzone delle postelle per onorare questo semestre. Va bene, grazie, Carlo, mille, Carlo. Inviteremo anche il tuo villano a cena. Sì, un bacione, grazie, salutaci, Giudi. Grazie mille. Ciao. Ci sentiamo sempre. Ciao. Ragazzi, ci becchiamo un botto di complimenti, ci sentiamo Yuhu! Sempre, facciamo così, facciamo così. Chiamiamo Yuhu! I migliori, chiamiamo solo i migliori. Bene, ragazzi, mettiamo un pezzo. Mettiamo un pezzo che non avevo preparato stavolta, ma lo mettiamo e aprirà il nuovo tema. Ah, questo mi piace tanto, mi ricorda la mia quarantena. Aprirà un tema, devo dire, particolare. Particolare. È il tema forse più particolare della serata, sì. Ed è un po' il tema della... non so neanche come dirlo, raga, è un tema... Sarebbe... oddio, della fluidità? Tema no. Della fluidità, fluidità. Il tema è quello del perché dobbiamo sempre essere bianchi o neri. Oh. La vita può essere anche non bianchi o neri. Esatto. Ci può piacere il carne e la pesce. Esatto. Si può essere anche cinesi. Esatto. Si può essere tutto quello. La verità, e poi lanciamo il pezzo, è che nella vita possiamo essere sinceri. Chi vogliamo, indipendentemente dai colori, ma possiamo essere tutte le sfumature che ci piacciono. E ad anticiparci e raccontarci questo nuovo tema, abbiamo Boy Rebecca con Io sì, tu no. Io passo al dolce. Sponsored by United Color of Benetton. Il romantico. Io sì, tu no, io sì, tu no. Tu vuoi essermi papi, però io no. Tu eres una bitch, però io no. Io sì, tu no, io sì, tu no. Io sì, tu no, io sì, tu no. Tu vuoi essermi papi, però io no. Tu eres una bitch, però io no. Io sì, tu no, io sì, tu no. Sono un ragazzo, la tua ragazza, mi tieni stretta come un pupazzo, ti addormenti come in braccio, poi ti risvegli e c'è un ragazzo. Non si capisce se tengo il tutti in giro dicono che sia grosso, che se mi spoglio diventi rosso, baby ti piace, tu eres mentiroso. 50% ombre, 50% mala, 50% ombre, 50% crazy bitch. Io sì, tu no, io sì, tu no. Tu vuoi essermi papi, però io no. Tu eres una bitch, però io no. Io sì, tu no, io sì, tu no. Io sì, tu no, io sì, tu no. Tu vuoi essermi papi, però io no. Tu eres una bitch, però io no. Io sì, tu no, io sì, tu no. Hey baby, ¿qué cosa fai stasera? Vente conmigo, deja la vergüenza, hola papito. Soy tu cosa nueva, baby te intrigo, ábreme la puerta. Zitto tesoro, spogliami adesso. Sei confuso, lo so che ti piaccio. Sono un ragazzo, ragazza, ragazzo. Io sì, tu no, io sì, tu no. Tu vuoi essermi papi, però io no. Tu eres una bitch, però io no. Io sì, tu no, io sì, tu no. Io sì, tu no, io sì, tu no. Tu vuoi essermi papi, però io no. Tu eres una bitch, però io no. Io sì, tu no, io sì, tu no. Io sì, tu no, io sì, tu no. Tu vuoi essermi papi, però io no. Tu eres una bitch, però io no. Io sì, tu no, io sì, tu no. Tú no, y si tú no, tú quieres ser mi papi, pero yo no. Tú eres una bitch, pero yo no. Y si tú no, y si tú no. Eccoci. Ci eravamo dimenticati di essere in onda, esatto. Scusateci. Beh, allora, questa canzone mi ricorda la mia quarantena. Sì? Mm-mm. Eri un po' maschio, un po' femmina. Sì, esatto. No, però cangiante. Io e il mio conquilino di quarantena, perché sì, ragazzi, ho avuto un conquilino solo per la quarantena, e a un certo punto ci siamo presi bene di questa canzone, cioè più che a un certo punto, all'inizio ci siamo presi bene di questa canzone e praticamente la mettevamo su ogni giorno. Ogni minuto. Ogni minuto, esatto. Però vabbè, ci sembrava la canzone corretta per iniziare questo nuovo tema. Un tema difficile. Marzi si sta mangiando uno dei famosi dolcetti comprati. Vi chiedo solo un piccolo esercizio. Ora facciamo un esercizio di envisioning. Chiunque abbia in mente la faccia di Marzia, alcuni di voi, immaginatevi la Marzia con la faccia molto vicino al ipotetico piatto che sta sul tavolo e con degli occhietti. In realtà è un pezzo di carta, scusate. È un foglio A4. È un foglio A4 che usa come piatto e ci ha guardato con degli occhietti, con la bocca piena e degli occhietti tipo da scoiattolo, tipo sorry. Posso parlare adesso perché ho la bocca piena. È stato sicuramente il mio momento. Ecco, posso dire, è stato il momento più bello della mia giornata. Esatto. Grazie Marzia. Grazie Marzia. Prego, va raga. Va bene. Villani. Allora, genderless si può definire anche. Tra l'altro, ho googolato l'espressione genderless e ho scoperto che è strettamente legato alla moda. Ah, beh, okay. Sì, sì, certo. Ecco, ma invece io pensavo di no, quindi nella mia ignoranza invece no, allora, tutto, devo dire che nella cultura nostra, comunque nel nostro vocabolario, secondo me è nato tutto, insomma, qualche anno fa, quando non si è iniziato a parlare dei famosi in Italia, dico, che arriviamo sempre un po' dopo, dei famosi no gender, no? Sì. O del famoso gender, quindi c'è stata tutta questa un po' diatriba in cui non entreremo perché volevamo siamo... avere degli esperti qui tra noi, ma purtroppo oggi... non ce ne abbiamo. E, quindi insomma la questione di fondo è, ci sono delle persone che preferiscono non definirsi uomo e nemmeno donna. E quindi preferiscono dire né uno né l'altro. Quindi preferiscono che non sono... dire tut. Esatto, non si definiscono in un genere. In un genere. Quindi sono non binarie. Esatto. E questo è un tratto distintivo, direi, soprattutto della generazione Z, non perché loro siano più meno gender definiti di altri, ma perché probabilmente si sentono più liberi di definirsi quello che vogliono loro. E il tutto un po' portato anche alla ribalta della cultura pop, devo dire, e qui follower, se sbaglio mi corrigerete citando così per buttarci dentro anche il papa, sì. due papi tra Entix e i figli Maurizio Moro, il papa, ecco papa, Giovanni Paolo, se ci stai ascoltando ti vogliamo bene. Quindi, quindi se mi sbaglio ditemelo, perché insomma Papa Boys, se ci state ascoltando, parlo un po' di pancia, però ne è portato abbastanza alla ribalta da anche un po' di serie uscite ultimamente, tra cui grande serie del 2020, sì. 19, sì, 19, no, 19 e Euphoria. Bella. Euphoria, bellissima serie con la Zendaya, che ormai è diventata che ormai mia amica, è un sogno, la esatto. Zendaya, che è una molto, una ragazza molto bella che ha iniziato anche lei, attrice molto bella che ha iniziato anche lei come Disney Princess, esatto, come le migliori in fondo, sì. E... okay. Come tutte Disney, come tutte. Se ci stai ascoltando siamo tutte vittime tutte. Bello, Disney, se ci stai ascoltando tutto. Vorremmo fare tutte e tre princess di Disney, se puoi. Difficile parlare con gli asterischi, però, ok? Sì. Quindi lei, principessa di Disney, alla fine cerca la sua ribalta come carriera facendo l'attrice, appunto, protagonista insieme a l'altra protagonista, sì. Di no, diciamo il nome, ok? E, Rebecca Sainz, ed è qua che ci servivano gli esperti, sì, secondo me. Rebecca e quindi Sainz. È la storia di queste due ragazze e del modo in cui vivono, poi tra vari eccessi, eccetera, eccetera. Però in tutto il film, in tutta la serie, senza fare spoiler, loro due hanno una relazione, diciamo, tra di loro, ma non si capisce mai esattamente, o comunque si capisce, però non è sottolineato così tanto la ricerca di un genere da parte di entrambe, soprattutto da parte dell'altra. Non è, esatto. E quindi diciamo che secondo me l'ha un po' portato sotto, non come tema inteso parliamo di questo, ma un po' come cultura, sdoganiamo nella cultura pop. Anche la serie di Guadagnino, no? We are. Beh, in generale comunque questa è la massima espressione che non scegliere non per forza sia una cosa negativa, anzi assolutamente può essere più che liberatoria in realtà. Sì. Ma, come prima, una volta in Italia si parlava di far scegliere il battesimo o meno, esatto. Non dico che sia la stessa cosa, però perché no. Cioè, esatto. Certo, no. Ma Marzi, rendi noto a tutti una cosa che ci ha, come dire, almeno quantomeno colpito a me, come appunto la prima opera cinematografica che ha introdotto per noi figli dei 90 questo discorso in parte. Allora, sempre senza voler spiegare niente a nessuno e voler dire ah certo è stata la prima opera, che no. È il primo ricordo che io ho, però è molto corretto secondo me, illuminante. Allora, secondo me la tematica del genderless è stata introdotta nella mia testa, almeno quantomeno in modo diverso dall'immagine dell'omosessualità, dell'orientamento sessuale in Billy Elliot. Bello, a me è piaciuta tanto questa anche cosa. A me film assolutamente il cuore. In Billy Elliot il nostro amico Billy è figlio di una mascolinità tossica della fortissima. Sua famiglia fortissima. Quindi working class a qualche parte dell'Inghilterra, che potrebbe essere Belfast, comunque nel, da qualche parte tipo Manchester. O Liverpool. Sì. E lui figlio appunto della working class, anzi si ritrova proprio immerso in una famiglia che lavora in una miniera, esatto. Padre e fratello lavorano nella senza mamma, lui va a lezione di pugilato. Perché il papà voleva facesse il pugile. Esatto, ma a un certo punto scopre che in realtà lui vuole ballare. Ha questo, questo talento, questa... Esatto, io voglio fare il ballerino. Il ballerino, esatto. Ma lui aveva questo... sogno nel cassetto. Ma più che sogno, lui aveva proprio una vocazione. Una vocazione vero. La danza. E ballava sui Pink Floyd, credo, del fratello. E quindi si iscrive alla scuola di danza anziché fare pugilato. Vabbè, insomma, la storia non è che la sappiamo. Direi che la sappiamo, però. C'è un altro personaggio nella sua storia. Che è il migliore amico storia, di Che è Billy. Il suo migliore amico. Che ora vado anche a cercare come si chiama. Esatto, sempre perché noi parliamo un po' così. Sì. Il suo migliore amico, fin da quando, quando sono bambini, che è durante appunto il film, che hanno, non so quanti anni avranno, 12, 13 anni, una roba sì, così. Una cosa che 14. E lui al suo amico piace vestirsi da donna e insomma insieme a Billy ogni tanto prendono i vestiti della madre e si vestono è vero, donne. Billy non è troppo convinto della cosa, però non giudica. Si lascia trasportare. Billy si lascia trasportare, assolutamente non giudica mai e accetta questa non definizione dell'amico. L'amico si chiamava Michael Caffrey. Michael. Michael poi alla fine, nella famosissima scena finale in cui Billy, ancora più genderless, fa il cigno. È vero, uomo. Mamma, esatto, è fa vero. Il cigno, bellissimo Billy. In un'ipotetica scala o al Royal Albert Hall. Esatto. Tra il pubblico, oltre a papà e fratello fierissimi, li accompagna anche Michael. Che è una donna bellissima, sì, quel punto. È vero, sì, esatto. Bello, mi è piaciuta tanto questa digressione cinematografica. Pur non avendo, diciamo, basi scientifiche per raccontare però questa cosa. Non insultateci. Ma raga, funziona secondo me, sta in piedi. Comunque, sta in piedi? Di base il pensiero è proprio quello che siamo arrivati a un certo momento di maturità, secondo me, in cui effettivamente, diciamo, non giudicare in senso negativo, però valutare una persona o un essere in quanto appunto maschio o femmina per forza dal momento zero della sua vita forse non ha più così tanto valore. No, esatto, e soprattutto riconoscersi in dei canoni prefissati che sono quelli dell'uomo e della donna non ha tanto più senso, ed è qua che si congiunge un po' tutta la cultura pop di adesso, che anche le case di moda un po' più famose non fanno più vestiti da uomo o da donna, ma li fanno dei vestiti, punto, poi chi anche si mette si rimette. Anche spintissima, come, cioè spintissima non porno, dico spintissima questa cosa, come ad esempio personaggi molto famosi, tipo penso al figlio di Will Smith, Jaden Smith, che nel senso lui sfila con la collezione da donna, sfila con la collezione da uomo, non ha nessun tipo di... Ma il Gali nostro stesso. Harry Styles, un po' chiunque graviti intorno al mondo Gucci, mi verrebbe da dire. Sì, direi che Gucci è il marchio, ecco, come dire, di fabbrica. Va bene, bello, ragazzi, è stato bello. Non so, se abbiamo qualcuno da chiamare oppure passiamo al pezzo dopo e lo chiamiamo anche più tardi. Va bene, come volete. Beh, io per saltare. No, vai, chiamiamo questa persona. Ce l'abbiamo una persona. Io ce l'ho, provo. Okay, chiama, non chiama, è detto vai, che no. mi risponda. Chiama ma questa persona. Chiama questa persona. Intanto che. Amici, l'ascolto, tremate come al solito. Intanto che la Marghe chiama questa persona. Ok, abbiamo questa persona. Boh, se risponde, non è mai. Speriamo che risponda. Ma il bello della diretta è anche questo. Si che chiama? Non si può dire. Ma tanto in ritardo un pochino la radio rispetto a quando la sentono le persone. Pronto? Eccoci! Eccoci! Buonasera! ti chiamiamo da fuori dal comune. Io mi sento indifferita, ora vi pauso. Sì, esatto, pausaci di là, altrimenti ti si frigge il cervello, Bonnie, se non sbaglio. È lei. Bonnie. Lei. Ciao Bonnie. Ragazzi, sì. Beh, te l'aspettavi anzitutto? Beh, non tanto, perché non avevo capito il criterio di selezione. Non c'è nessun criterio di selezione, quindi hai fatto bene a non capirlo. Pensavo fosse dalla chat di Telegram o qualcosa No, è molto più a cazzo di cane. Sì, esatto. Sì. Bello, piaciuto. Vabbè, allora, Bonnie, se ci hai seguito più o meno fino adesso, innanzitutto cosa stai facendo? Stai anche tu sorseggiando un bicchiere di vino? Bicchiere di birra. Per eravate qua. E anche questo qua è un sogno di Marzia. Certo, probabilmente adesso ne vorrei una, vista sì, la rassura che piano tantissimo. Piano si sta appropriando di noi. Esatto. Va bene, allora, se hai seguito un po' il nostro programma, dunque, innanzitutto ti chiediamo qual è il tuo villano. Delle decisioni. Il mio villano? Mm-hmm. Allora, sentite che in realtà in decisioni diverse della mia vita, in ambiti diversi, un pochino tutti quanti temo di averli sperimentati. Ah, bello! Sei una multivillain. Una multivillain, ci piace. Non so se sono personalità multiple. Anche. Potrebbe essere. O villani multipli. Sì. Bello. Se devo sceglierne uno in particolare, forse direi un bel villano numero uno. Il villano numero uno era quello che le domande sbagliate. Okay. Però mi piace questa tua versione mix. Sì. A seconda dell'occasione tiro fuori il mio villano. Sì, e che è un po' tipo il genderless del villanesimo. Esatto. Non sto scegliendo neanche il villano. A seconda della situazione, tu la mattina ti svegli e dici, ok, stamattina sono Bonnie, villano 2. Esatto. Stamattina sono Bonnie, villano 4 e via così. Esatto, via così. Molto bello. Bello, ci piace. Villano fluid, bello. Grande. Sì, mi piace. Guarda come tutto torna. È proprio la prova del 9 questa. Sì. Bene. E invece la decisione più difficile o le decisioni più fatica a prendere, insomma. Dalle più banali. Questa è una domanda veramente difficile. Non me l'ero pensata la risposta sul villano, così. Non lo so, diciamo che quelle in ambito più magari lavorativo o a lungo termine nella vita sono quelle che mi mettono più sbattimento solito. Se sono cose molto importanti ma che sono più immediate in qualche modo, la vivo con più serenità. Se invece è una cosa che potrebbe avere molto a lungo termine un impatto, di solito sono quelle che mi mandano in sbattimento. È giusto. Ci sta, Bonnie. Forse anche lì perché mi faccio le domande sbagliate o me ne faccio troppe. Chi lo sa. Qua ci sono troppi villani che intervengono in queste decisioni. Quindi ormai è difficile è diventato più difficile anche capire qual è il villano che ci sta guidando in questo momento. Esatto. Quindi di conseguenza muoversi. Va bene, grazie Fluido. Grazie, Fluid. È stato un grandissimo piacere. Anche per noi. Per noi. Ciao. Buona serata. Ciao. Altrettanto. Ciao. Raga, e quindi il pezzo che vi stiamo per lanciare è proprio la spiegazione, secondo me, che chiude un pochino il cerchio, perché è appunto in mezzo a tutte queste decisioni sicuramente ci sentiremo persi. E chi meglio, tra l'altro, lo sta dicendo alzando le mani, anche, entrambe, chi meglio di Frank Ocean può raccontarci come ci si sente ad essere lost? Double D, big four breast on my baby. Triple weight, couldn't weigh the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on the train, lost. Got on my buttercream, silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I could wait to work. I got on your girl. No, I don't really wish. I don't wish the titties were short. No, have I ever, have I ever let you get caught? No. Lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on the train, lost. Cheese at the stove, can't believe I got her out here cooking dough. I promise she'll be whipping meals up for a family of her own someday. Nothing wrong, nothing wrong, nothing wrong with the lie. Nothing wrong with another short plane ride through the skies. You and I are lost, lost in the heat of it all. Lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Vacanza, Frank Ocean. No, ci dicevamo che vacanza ci piace... con le lacrime sempre, vacanza comunque. Con lacrime perché ci piace soffrire. Sì, però bello, a me piace molto. A me piace piangere. dicono che faccia bene agli occhi. Cioè, forse mia mamma mi diceva da piccolo ti fa gli occhi belli. Bella questa versione. Però ho sempre avuto gli occhi castani normali. Come gli occhi, come il sudore. Alle ballerine non si dice mai che sudano, ma brillano di luce proprio. Bella anche questa, mi Marzia si vede che ha pianto tanto da piccolo perché le sono venuti gli occhi azzurri. Hai visto? Azzurro, sì, io ero una super frignona da piccola. Va bene ragazzi. Allora, per me, insomma, stiamo ancora parlando di decisioni. Stiamo avviando lentamente verso la fine della puntata e al continuazione di questa zona rossa e non più grigia che è la nostra vita. By the way e un'altra cosa che di cui ci siamo interrogati pensando, parlando di tra di noi di decisioni di come si fa fatica a valutare poi quali sono le scelte migliori da prendere, è il tema di ok, ma come faccio a dire che cosa è bene e che cosa è male. Esatto, sì. Distinguere esatto. il buono dal cattivo. Esatto, il male dal bene. E anche qua ci siamo sempre un po' ritrovati fin da piccoli, un po' probabilmente perché la cultura cattolica in cui il bene e il male è ben scisso. Esatto, in cui il bene, cosa è bene, cosa è male, ben chiaro quando siamo piccoli, forse, no? Da un'aureola o da delle corna. Esatto, ben chiaro che cos'è. Poi dopo arrivi da grande e si fa un po' fatica. Ci sono delle cose un po' più che hanno delle sfumature. Ma che dove sono gli angeli qua? Esatto. E non sempre sono male. E esatto, allora perché mettere l'aureola in testa a tutti i bravi, che almeno faccio meno fatica a capire esteticamente cosa... potete distinguervi. Esatto. Grazie. Quella là con le corna, mi mettetevi da quella parte là che capisco bene. Buoni a sinistra, cattivi a destra. Buoni o cattivi, non è la fine. Esatto. Cheat Vasco Rossi. Ah. No, ma Vasco Rossi. Sì, sì, lo sapevo. Comunque, bene. Per affrontare questo tema ci viene incontro il carissimo Primo Levi, che ora non staremo a dirvi niente di particolare. No, perché se no diventa, esatto, una roba. Esatto. Comunque c'è un'opera di Primo Levi che si chiama proprio Zona Grigia, che va, dice, sì, sarebbe bello che, ora vi faccio l'imitazione di Primo Levi nel 2021, prego, che parla un pochino in dialetto del nord Italia. Ti prego, fallo. Esatto, in cui dice, sì, ok, sarebbe bello che tutto fosse scindibile in buoni e cattivi, però dobbiamo renderci conto che spesso, sia a livello di decisioni, sia a livello di persone, è molto difficile capire il limite fra il buono e il cattivo, e soprattutto se ci sono due poli che sono il buono e il cattivo, ci sta un mondo in mezzo, raga. Ma che... Primo, guarda, io tutti i giorni mi faccio questa domanda, cioè grazie per aver portato sul tavolo questo primo tema. E quindi abbiamo detto, ok, non andiamo a vedere a rovinare l'opera di Primo Levi ulteriormente, però ci siamo detti, ok, quali sono quelle decisioni in cui noi facciamo un po' appunto fatica a scindere se è una decisione giusta, se è una decisione sbagliata, oppure se questa cosa che sto vedendo è giusta o se è sbagliata. Ma facciamo un esempio pratico per farlo capire molto, ai nostri molto, amici molto da molto casa. Un esempio pratico e molto che tange la vita di tutti noi, cioè tipo chiamare Deliveroo, usare il servizio di rider. Sì, sbatti. Cioè, allora, perché Amazon. Il tema che mi affligge a me è, allora, lo chiamo, cioè uso questo servizio, innanzitutto perché c'ho un culo pesante e dico, cazzo, però sono una merda, perché sono ben consapevole di star sfruttando delle persone per fare questa cosa che fino a magari 2 anni fa potevo tranquillamente farmi da solo, però nell'altra parte del cervello, cioè, però se io faccio questo faccio questa chiamata, do tipo, lavoro, so che è molto molto banale come però, discorso, così è però vero. Do un lavoro a questa persona che magari è in una situazione precaria o difficile, quindi do la possibilità di... Sì, comunque sono aziende, società, quello che è iniziative, bla bla bla, che aiutano facilmente una fetta della popolazione che altrimenti avrebbe meno accesso al mondo del lavoro, in qualche modo ad avere un reddito, un'entrata, chiamiamola così, bassa. Non è etico forse, perché il modo in cui vengono trattati non è etico, però capisco il tuo tema che dici, e anche io me lo pongo spesso, e anche la mia amica Silvia, con cui una sera credo che siamo state fino alle 4 di notte a parlare di questa cosa, a un certo punto in lacrime il tema era siamo tornati a piedi da un posto con meno 30 non prendendo Uber, e abbiamo discusso sulla scelta. Okay. E siamo poi andati avanti fino a una certa, e non siamo comunque arrivati a della ma della perché cosa. È difficile arrivarci obiettivamente. Io alla fine sarò molto franca, quando decido di utilizzare questi metodi, diciamo Deliveroo o chi per esso, mi sciacquo la coscienza, perché di fatto è così, aggiungendo la mancia. Lo possiamo dire nell'ordine o in nero con le monetine? No, nell'ordine. No, allora, modi per aiutare i rider sono due essenzialmente. Vai. Anzi tre direi. Uno, letto da Deliverance, che è credo l'associazione, insomma. E crede. Poi, sempre pronti per essere smentiti. Ragazzi, questo non è un programma serio. Che verifica le fonti. È un programma di disinformazione. Esatto. Pura. Cioè, pura. Siamo competitor sulla disinformazione con Repubblica, raga. Quindi, occhio a contro chi vi mettete. Esatto. No, però, i modi in cui si dovrebbe poter aiutare i rider, nonostante le loro condizioni salariali, sono dare la mancia sempre in contanti, perché Deliveroo, Glovo eccetera eccetera se li mangiano un pezzo, esatto, quindi dare sempre la mancia in contanti, non ordinare da ristoranti troppo lontani, perché loro per evitare di farlo sbatti, sulla base di quante consegne fanno, e quindi più vicino è meglio è. E anche aiutarli quando arrivano a portarti le cose. Io scendo sempre. Per fortuna, Marghe, dovete sapere che abita al nono piano senza ascensore in una torre di cristallo. Quando noi ci troviamo a casa sua per preparare le puntate, tendenzialmente arriviamo su che siamo morti. E non possiamo parlare per almeno mezz'ora. Esatto, per il bello che chiunque arrivi a casa mia per i primi, non so, 5-10 minuti acqua. È scosso. Per cui io arrivo sempre con dei bicchieri d'acqua ad accoglierli. Acqua. E poi proprio perché mi sento una merda, scendo giù a non scendo giù a prendere i miei amici, ma scendo a prendere il cibo, perché giusto, mi sembra giusto. Però la mancia adesso, allora, d'ora in avanti non la darò più con l'app, ma la darò live. Io, okay, io mi sono fatto questa cosa in testa, che io do un euro di mancia nell'app, perché poi dicono che non, perché sennò Deliveroo ha la maniera di dire che non diamo le mance. E poi do la mancia in moneta alla persona direttamente. Perché se, non, se c'è la mancia fuori dall'app completamente, lo dicono. Però per voi vi lamentate che fate, usate questo servizio, però non date mai le mance. Perché Deliveroo non ha la maniera di vedere la mancia in nero. Ho pensato io questa cosa. Non lo saprei. No, non lo so neanche io, l'ho pensata io e basta. Okay. Ma va bene, ok. E, comunque questo è un pensiero, è un esempio molto, molto concreto di come si fa fatica a volte a prendere delle decisioni, a capire se cos'è il giusto dallo sbagliato. A volte bisogna anche appunto avere probabilmente un'analisi critica degli eventi e dire ok, ma non tutto è bene, non tutto è male. E Fede, dicevi che per esempio i Black Bloc ti danno questa feeling. Io da feeling. Sempre, raga, ho sempre avuto un po' questa sensazione qua. Cioè, nel senso, io, diciamo, ideologicamente possiamo dire, ora mi sembra un po' forte, però possiamo dirlo, diciamo che tendenzialmente tu stai dalla parte de dove sta la manifestazione del Black Bloc. Mm-hmm. Cioè, comunque, diciamo che la cosa che muove il Black Bloc, se possiamo generalizzare in questa maniera, è tendenzialmente la stessa cosa che muove me. Ok. Però poi nel momento in cui effettivamente il Black Bloc agisce da sempre nella maniera, appunto, con violenza o con mm-hmm. maniera di protestare, quello che vuoi, mi crea un po' di guerra interna a me personalmente, nel vedere, per dire, non so, distruggere la macchina che parcheggiate, che magari è di una famiglia o di una persona che magari si è fatto il culo per comprarsi la macchina e queste cose qua, cioè mi crea un po' quel oddio, io sto tipo tra virgolette tifando la squadra giusta, cioè sono allineato e non sono mai riuscito a risolvermela questa cosa. No, credo che questo sia un corso del terzo anno di PhD in filosofia, esatto, che si chiama Etica 3. Etica 3. Etica volume 3. È molto difficile, molto difficile. Molto difficile se ci sono filosofi esperti di etica online. Di etica 3, ci però. Sono arrivati dei messaggi, però, forse. Sì, un certo Davide dice: a me è capitato 2 settimane fa di ordinare da Domino's ed è arrivato un signore di 40 anni e passa che poteva essere mio padre. 40 anni e passa, è giovane tuo padre. Ho tamponato il dilemma etico con una mancia di 4 euro in moneta. Giusto, Davide, esatto. Hai fatto bene. Poi capiamo quanti sono, anche io più o meno do quelle cifre là, forse anche un po' meno. E a volte anche io mi chiedo, sì, cioè ci aspettiamo magari sempre il ragazzo di 20 anni, magari di colore, eccetera, eccetera. Che spesso succede, devo dire, tante volte. Però è vero, ogni tanto ci sono anche situazioni molto, molto diverse, in cui magari ci sono persone più in là con l'età, più... C'è da dire che però a me non è mai capitato il famoso signore, che non mi ricordo il nome, che ha smesso di fare il commercialista e fa 6.000 euro facendo il rider. No, neanche a me. No. Non è mai capitato, quindi signore che è, se vuoi vieni a bussare alla mia porta, casa mia. Va bene ragazzi, andiamo pezzo e poi notizie che vi siete persi questa settimana e che volete raccontare ai vostri amici. Pezzo il pezzo è tricky. It's Tricky dei Run DMC, perché it's tricky sempre prendere delle decisioni. Tricky. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right, on top. It's tricky. Here we go. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky. Tricky. Tricky. Tricky. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. Tricky. Tricky. Tricky. I met this little girlie. Her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. Are really sleazy. All they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. How is it, Dave? It's tricky. Tricky. Tricky. It's tricky to rock around. Rock around. That's right, on time. It's tricky. Yeah. Tricky. Tricky. Tricky. In New York, the people talk and try to make us rhyme. They really hawk, but we just walk because we have no time. Windows don't mean nothing, they know who's inside. It's tricky to rock around, that's right, on time. It's tricky. my time. I'm not singing, funky ringing, cause I make up a rhyme. I'm not bragging, people nagging, cause they think I'm a star. Always tearing what I'm wearing, I think they're going too far. A girl named Carol follows Daryl every gig we play. Then de-dissed her and dismissed her, now she's shocking Jay. I ain't lying, girls be crying, cause I'm on TV. They even bother my poor father, cause he's down with me. It's tricky to rock a rhyme, to rock a rhyme. That's right, on time is tricky. How is that? Tricky, it's tricky to rock a rhyme, to rock a rhyme. That's right, on time is tricky. Tricky, we don't use drugs, but you assume on your own. They offer coke and lots of dope, but we just leave it alone. It's like that, y'all. Y'all, but we don't quit. You keep on rock shot, cause this is it. Canzone vecchiotta, di che anno, Fede? 86 se non sbaglio. 86, ma tornata alla ribalta con TikTok. Mi dicono, io non lo sapevo, sì, scelta... Sì, questa è una TikTok song, fenomeno delle TikTok song per voi boomer all'ascolto, sono quelle canzoni che... per noi boomer anche me, tra l'altro. Esatto, sono quelle canzoni che erano famose, o comunque che erano canzoni anche prima, ma... prima di diventare dei TikTok. Esatto, ma che sono estremamente famose per la loro... diventano famose con i trend, perché magari c'è un ballettino, una challenge associata. Bello. Tipo la più famosa mi sa che è... Sì, domani se non che momento, che momento di alta radio. Domani sul nostro canale Instagram di Fuori dal Comune stava preso, vedremo il TikTok di Marzi che fa sembrava più quei come si chiamavano quei video che riprendevano gli animali che facevano dei suoni tipo che è la tartaruga che si chiama Alan Steve. Bellissimo. Bene, siamo arrivati alla nostra fantastica rubrica che ha una bellissima notizie della settimana, che ha una bellissima, com'era la, non c'era il jingle, le altre notizie della settimana. Scusate, l'ho rovinata. Bene. Visto che stavamo parlando di TikTok, visto che stavamo parlando di TikTok, ci siamo imbattuti in questo fatto. Ci siamo imbattuti perché plurale maiestatis. Perché i miei pensieri sono i vostri pensieri sono i miei pensieri. Esatto. Pensiamoci. Basta che non mi diate i vostri villain che va di sbatti, già troppi. Madonna, c'ho l'armadio pieno di villain. Minchia, la isola piena piena di villain. Allora, TikTok stavo dicendo, abbiamo scoperto che a quanto pare, nonostante tu abbia una condanna penale a 70 anni dovuta a un plurimo omicidio in California, tu puoi avere il cellulare. Ma in... soprattutto questa non è una notizia, non lo sappiamo se questo è vero, però a quanto pare sì. Perché ma l'abbiamo detto che siamo come Repubblica. Nei mesi passati è diventato molto famoso, e vi dico la notizia della settimana perché magari non lo conoscete, magari sì, è diventato famoso questo tale su TikTok, TikToker, che dal carcere fa dei video TikTok che ha 300.000 follower. Vabbè. All'interno del quale lui fa vedere come cucina con dei vari trick all'interno della sua cella, insieme al suo compagno di cella, ma fa delle robe pazzesche, cioè tipo scoperchia il letto, che il letto è appoggiato su una base di metallo, e si fa un hamburger costruendo tipo con un piccolo fornelletto per scaldare il tè, lo appoggia alla base del letto di ferro, diventa una piastra incandescente e lui si fa un hamburger. È tipo il dietro le sbarre con in mano un telefono. Sì, che però mi ha fatto un po' shock perché appunto ha un botto di follower, ha un telefono in carcere e sta scontando una pena per 70 anni. Che poi, vabbè, nel senso, non stiamo. Cioè, liberi tutti di. Chiunque può fare TikTok, anche se hai 70 anni da scontare. Esatto. Poi, voglio dire, cioè, ce ne avrà un sacco di tempo libero per i prossimi anni, quindi è giusto che sia content creator. Esatto, a fare TikTok. Poi, l'altra notizia della settimana, io scelgo, se tu posso scegliere tra il nostro. Plurimo. Listone. Sì. Scelgo l'esperimento in Olanda. Vai, esperimento in Olanda. Abbiamo visto tutti il video. Sì, ci siamo emozionati tutti, secondo me. Sì. Io mi sono un po' emozionata, porca merda. Ma dici di più, Marga, di questo esperimento in Olanda. No, ovviamente non ho letto un cazzo, chiaramente zero fonti. Vi dico quello che ho capito. Su questo sono un po' preparato io, però tu vai. Esatto, tu poi nel caso tu aggiungi. Esatto. L'idea, cos'è successo questo weekend in Olanda? Hanno fatto un esperimento per testare, credo, un'app nello specifico, quindi hanno fatto un festivalino da 1500 persone, minchia il numero esatto, forte. Ok, 1500 tutti per la, testati per la esatto, per la questura, per la questura. Esatto, più 2000 per. Esatto. Tutti testati, tutti negativi, e gli hanno fatto scaricare questa app che teoricamente, mi spiegava Fede prima, dovrebbe aiutare nel momento in cui dovesse esserci un contagio a rintracciare tutti i contatti che ci sono stati durante questa serata, questa giornata. Come potete ben immaginarvi, tipo durante immuni. Un concerto è ben difficile. Esatto, per cui vengono tutti divisi per gruppi e si capisce qual è il margine, il perimetro di contatto di una persona. Mica l'hai spiegato benissimo. Sei stata strana. La cosa bella è stata che ovviamente erano tutte persone tamponate negative dentro festa DJ, come proprio come non ce lo ricordiamo neanche quasi più. E io a piangere. Esatto. Marzi, quali scegli? Allora, io scelgo che questa settimana, anzi, non questa settimana, ma questa notte è nata Vittoria. Vittoria, la figlia dei Ferragnez. Benvenuta Vittoria. Ho visto un meme che era molto bello. Questa notte è nato un nuovo canale Instagram. Sì, esatto. Un po' è vero. L'altra cosa che invece mi premerebbe dire, infatti, è che oltre a Vittoria, questa settimana che è passata, è nata anche probabilmente la più grande, arrivato al culmine, un momento grandissimo di sfiducia nei confronti dei giornali, dei giornalisti italiani, in quanto con tutta questa questione dei vaccini è successo un po' un casino, no? Vabbè, però in realtà questa cosa ve la diciamo, ma sappiamo che probabilmente con i vostri amici ne avrete già parlato, quindi parlate di Vittoria Lucia. Vittoria Lucia, mi pare. Ferragni, secondo me. Vittoria Ferragni Lucia, forse. Sì. Che Lucia non è il nome, ma il cognome di Fedez. Esatto. Sì, esatto, il tema del non era tanto la notizia quella dei giornali, ma era giusto per farvi per rincarare un pochino la dose ai nostri cari nemici. Fede vi parla, è uscito l'album di Justin Bieber. Ah, bello, mi piace questo. È uscito l'album di Justin Bieber, e l'album mediocre, niente di interessante. Io l'ho sentito, però niente di immemorabile. Immemorabile, devo dire. Lui buono, però. Lui è sempre buono. Molto buono, ed è diventato ancora, cioè, adesso ancora è più buono. C'ha la deriva cattolica fortissima. Ah. Lì si sente tipo molto, molto Kanye in questo momento. Ah, sì? Sì, sì, c'è ma proprio ce una l'ha un po' il Kanye cattolica forte. Sì, comunque, sì. Al di là di questo, il complesso di Kanye. Sì, album interessante perché ci sono anche, vabbè, vari ospiti, cioè che in Italia non sono ancora arrivati, però in America iniziano ad avere già un pochino di seguito. Ma la cosa più interessante è che l'album di Justin Bieber si chiama Justice, e i Justice, la ben più famosa diciamo duo elettronico francese, si chiamano Justice anche loro, guarda un po'. E per tutta la vita i Justice, che erano già ben presenti prima che Justin Bieber nascesse, probabilmente, sicuramente come persone, magari non come Justice, avevano appunto questo logo che era Justice con una T fatta a forma di croce, no? E cosa ha pensato? Famosissima, nei vostri ricordi, esatto, del 2008. 2007, 2008, esatto, c'era proprio quella roba là, no? Loro che sono nella mia testa gli eredi dei Daft Punk. Comunque, detto questo, Justice con al posto della T una croce, e cosa fa Justin Bieber? Intitola l'album Justice proprio con la T a forma di croce. E il secondo in cui è uscita, è stata pubblicata senza chiamare gli amici dei Justice. No, senza chiamare gli amici dei Justice. No, un cazzo. Cioè, è partita la guerra, e i Justice hanno denunciato Justin Bieber. Vabbè, però io dico già, Justin, se ci stai ascoltando, ma porco zio. Cioè, e già usi un nome che comunque è rievoca... già usato nel mondo della musica, esatto, mettiamola così. Esatto. Ma minchia, ma va a vedere il logo? Ma fatela una domanda. Ma secondo me è tipo, è in quel caso di tipo plagio. Plagio, ma anche di gesto per dire fanculo. Mi piacciono i Justice, quindi tipo un ma po'. Va, ma quella è la cosa che si è inventato. L'album ha qualcosa di Justice dentro. No. Ma figurati. No, niente. Vabbè, Justin sarai Bieber... buono, però zio, sveglia. Ma forse Justin Bieber non pensava che i suoi follower europei avessero questa reference. Beh, però, ieri, mentre stavo preparando la musica per la puntata, ho notato una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso. Un first reaction shock, che se tu su YouTube adesso scrivi Justice, non ci sono più i Justice come prima roba, ma c'è un botto di roba di Justin Bieber. Porco purtroppo. Zio. Fa un po' paura, purtroppo, nel senso, è così. Cioè, Google, se ci stai ascoltando. No, quindi raga, cercate un botto di Justice. Cercate Justice e dai, andate a cercare proprio. È andate a cercare proprio. A sentirli 2-3 anni fa al figata. All'Arena Civica. Figata. Però erano già stanchi loro. Vabbè, insomma, vabbè, cioè, uno fa quel ultimi, che può. Gli ultimi... uno fa quel che può. No, ma per l'amore del cielo, anzi, io no, li all'ippodromo adoro. All'ippodromo, con gli Empire of the Sun. Beh, sì, Remember Yesterday. Sì. Vabbè, chiudiamo, chiudiamo con... No, vabbè, è uscito anche l'album di Madame e l'ultima... cosa? L'ultima notizia. L'altra notizia della settimana. Ultima altra notizia della settimana è l'uscita dell'album di Madame. L'ho un po' buttata così, poretta. È uscita l'album di Madame, raga. Ascoltatelo. Potrebbe essere un po' la... Ah, bello. A me è piaciuto. Un carino. Se posso proprio dire la mia, anche se nessuno me l'ha chiesto. L'opinione non richiesta di Marghe. Esatto. Il fatto che l'abbia portata, cioè, un po' brodo lungo, no? Cioè, se fosse uscita subito con questo album, ok, ci sta, faceva il cazzo suo, era molto ok. Fatto che sono cosa sono 3 anni che ce la fa, 2 anni lei... che ce la fa sudà. Vabbè, dai, vabbè, cioè, no, bello, è il nuovo però, volto figa. Della musica italiana. Però quarto posizione, quarto nel mondo. Sì. Non prima è che uscisse Justin. Prima di Justin. Poi tutte le volte che scrivi Madame esce fuori Justin Bieber. In ogni caso, sì. Minando la sua sessualità. Esatto. Esce fuori baby. Va bene, dai, mettiamo, dai, mettiamo l'ultimo pezzo, poi mettiamo il penultimo pezzo, poi mettiamo i Justice, poi che fa un po' il giro, perché vi fa ballare come al festival in Olanda, vi fa ricordare i Justice, vi fa venire voglia di ascoltarli rispetto a Justin Bieber e magari diventa una magari... canzone TikTok. Esatto. Una challenge. Fatela diventare un trend, così rientra di nuovo tra i più googlati. Divino Justice. Tell me when I can come in. Home in this world you're dying to. One more time, my answer's in. I swear I'm leaving no orphans, but you better learn to read. It's all about membership, yeah. I spell it for you, you know. Ugly virgin boys, I put you on my list to make a trap to kiss. I just an ego trip, but only one can win. And soon you say that P-B-N-O, four capital letters printed in gold, cause details make the girls sweat even more while they shaking their bounds. No need to ask my name to figure out who I am. P-B-N-O, four capital letters printed in gold, cause details make the girls sweat even more while they shaking their bounds. No need to ask my name to figure out who I am. Anyone read, anyone feel that I'm losing my patience? I just came here to bounce. Ladies out wax, they all know I'm coming. I'm losing my patience. I just came here to bounce. No need to ask my name to figure out who I am. Watch the shaky lip. No need to ask my name to figure out I just came here to bounce. Ladies at wax, they all know I'm coming. I'm losing my patience. I just came here to bounce. Piano for capital letters printed in gold, 'cause details make the girls sweat even more while they're shaking their belt. No need to ask my name to figure out who quanto abbiamo ballato? Poco. Sì, effettivamente poco. Diviene. Wow. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine, mamma, di questa meravigliosa puntata insieme a una serie di villani qui, esatto, con noi. Abbiamo la stanza piena di villani. Piena di villani. Piena va bene, villani. Ragazzi, allora andate a dormire. La bocca piena di sale. Sì. Focacce finite. L'acqua nel corpo praticamente al 0%. Finita, esatto. Se vi raccontano quella bugia che siamo degli esseri umani fatti al 70% d'acqua, sapete che in questo caso non è vero. Non è vero. Perché è una sete che mi berrei. Per colpa di quel villano del paese. Per colpa di chi. Bene, chi, quindi chi. L'abbiamo scampata bene, questa settimana. Bravi, bravi, bravi tutti, bravi voi, bravi villani, bravi non villani. Ci risentiamo. Tra ci risentiamo settimane. Tra un paio di settimane. Che è il giorno di Pasquetta, se non sbaglio. Giusto. Ah, oddio. Il 5, giusto, beh, magari giusto. Faremo il 6, non lo sappiamo. Adesso vediamo. Adesso vediamo. Eh? Adesso vediamo. Vediamo, vediamo. Sarà sì, il primo giorno intero che farò in casa mia nuova. No, wow. What a trasloco. Sì. Va bene, ragazzi, vi baciamo. Grazie, grazie. Ciao. Mille per essere stati con noi. Ci vediamo. Vi lasciamo con l'ultimo pezzo che c'entra un pochino, ma non tantissimo. Però fa parte delle decisioni. Quindi scegliere con chi andare a fare cose. Qualche giro. Buona serata. Ciao. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no tu no. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no tu no. Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo solto l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?